La poesia è una di quelle cose che se non la sai fare bene è un disastro. E questa regola non vale per tutto, eh. Cioè, se non sai cucinare, ad esempio, può capitare che un piatto sia mangiabile. Se non sai giocare a pallone, magari un gol lo fai prima o poi. Ma ci sono cose, tipo cantare e scrivere poesie, che è meglio lasciarle fare a chi è in grado di farle. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16 e 8 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Verso la metà del secolo scorso, la Terra ebbe un sussulto e si decise a fare il meglio che poteva fare per una volta, forse per l'ultima volta. Chiamò a raccolta le maree oceaniche, i venti più famosi delle montagne, il Nilo, il Gange, il Plata e il Mississippi. E non sapendo che farsene di un tutto tanto imponente e tanto imbarazzante, lo chiese a me. E così fece te. Ecco, questa è stata una delle mie poesie migliori. Vi lascio immaginare come siano le peggiori. Prima o poi tutti quanti nella propria vita hanno scritto dei versi. Ammettetelo. Di solito succede in due situazioni, quando si è molto innamorati o quando si è molto tristi. È un po' come se scrivere quelle cose potesse aiutare in qualche modo, non so in quale modo, come se potesse alleviare qualcosa. E forse è così, non lo so, forse una mano la dà davvero, forse alleggerisce il carico di sofferenza o di felicità. Non so perché quelle siano delle cose così assurde, non sono delle opere d'arte, ma per il semplice fatto che nominare delle cose aiuta a guardarle, allora ti danno una mano. Usare le parole è un modo per osservare quello che noi non riusciamo a decifrare. E quindi ben vengano le poesie, ben vengano i racconti, i romanzi. Ecco, l'unica cosa che ognuno di noi però dovrebbe fare è avere la lucidità di tenersele per sé, quelle cose. Di non sbandirarle in giro come fossero opere di straordinaria importanza o spedirle agli editori, ma soprattutto non leggerle mai alla persona a cui sono destinati. Di questo ne sono convinto, lo penso e l'ho sempre pensato. Oggi però io vorrei fare una cosa diversa. Oggi vorrei fare una sorta di grande atto di autoironia collettiva. Oggi mi piacerebbe che tutti quelli che hanno scritto anche solo due versi, in rima baciata, in rima alternata, chi ha scritto in endecasillabi sciolti, in terzine dantesche, chiunque abbia buttato giù un poema o anche solo un piccolo sonetto, mi piacerebbe che questi avessero la voglia e il coraggio, ma soprattutto l'autoironia, per ammetterlo e leggerla in diretta. Io già l'ho fatto e la farò ancora. Se voi avete voglia di farlo con me, io sono qui. Il numero è 800240024 oppure 349-238-6666 per gli sms, se sono abbastanza brevi e concisi quei versi per poterli scrivere. D'altra parte, l'autoironia è una delle cose che ci aiuta a sopravvivere. Quindi la cosa che vi chiedo oggi è proprio quella. Voi l'avrete fatto, prima o poi, presto o tardi, magari l'avete fatto in gioventù, sicuramente anche Fabio Cantadori l'ha fatto prima o poi, di scrivere due versi, e non te li chiedo, Rudy, non li voglio sentire. Però se c'è qualcuno a casa che magari ce li ha sotto mano, se siete alla vostra scrivania, nella vostra stanza, se nel vostro studio, e c'è un cassetto, ce l'avete un cassetto in fondo al quale c'è nascosto un piccolo plico, oppure una cartella che contiene dei file che spero non abbiate mai spedito a nessuno. Se avete veramente il coraggio di farlo, 800240024 oppure 349-238-6666. A me è capitato, lo ammetto, purtroppo quei versi non ce li ho più e anche se ce li avessi non ve li leggerei comunque. L'ho fatto, ero alle scuole superiori e spedivo delle lettere scritte in terzine dantesche, so che è terribilmente comico ma è così, scritte in terzine dantesche ad una ragazza a cui non mi sono mai confessato. Non mi sono mai palesato in realtà, non ho mai confessato che fossi io. Lo facevo dandomi uno pseudonimo che non vi dirò qual è, e l'ho fatto però per circa un anno. Se voi avete voglia proprio di leggermele queste poesie, 800240024 349-238-6666, ve ne leggo qualcuna di quelle che sono arrivate su Facebook. Giorgio, ringrazio Giorgio perché ci vuole del fegato per spedire delle robe del genere. Prima neve si intitola, io dico non fate le poesie sulla natura, niente, prima neve. Non c'è una base un pochettino più, secondo me la troviamo al volo adesso, eh? Qualcosa che riguardi la neve, che sia dolce e docile, come la neve che cade, come qualcosa che vada bene per il titolo Prima neve. Con la gioia del bambino guardi la neve cadere. Io avvezzo, la disprezzo. Vorrei essere bambino e poterla apprezzare. Vorrei mettermi alla finestra a guardare la neve cadere, per coprire tutto e rendere romantica ogni cosa. Vorrei tornare bambino ed aspettare il Natale, come quando la neve cadeva meglio ed io la apprezzavo, ed io l'amavo. Giorgio, grazie del coraggio e dell'autironia. Ve ne leggo qualcun'altra, non ti chiedo la basettina, altrimenti non usciamo più. Adolfo, ad esempio, mi dice: un giorno mi sono svegliato, era un sogno, ho scritto questa frase: tu hai nella rete una cattiva bandiera. Può diventare qualsiasi cosa. Ve ne leggo un'altra perché sono davvero succulente. Fabio mi dice: qualche verso disastroso scritto qualche tempo fa, preso da una pagina ancora più ampia e peggiore. Qui però la base ci vuole, Rudy, scusami, lo so che ti faccio. Fabio mi scrive tra l'altro da un paesino vicino al mio: ho un cellulare in tasca tutto consumato. È troppo piccolo per le mie dita grandi. Non ha una scheda per contenere foto né suonerie. Ci stanno pochi messaggi e poche persone. Ho un cellulare in tasca tutto consumato. È rosso e blu davanti con i bordi argentati. Ha uno schermo con pochi colori per non distrarmi. E così, dopo aver letto e riletto due o tre volte quello che hai scritto, posso prendere le parole dei messaggi, spremerle e guardare cosa ne viene, non viene fuori di quello che avresti voluto dire. Grazie Fabio. Talmente che non sono riuscito a leggerla, ti chiedo scusa. È un grande inno all'autoironia. Io spero che voi abbiate voglia di farlo, abbiate voglia di tirare fuori quei versi che avete scritto, di cui un pochettino vi vergognate, e li ammettiate. 800240024 349-238-6666. E ora veniamo a me. E poi arriva il momento in cui fai conoscere la tua ragazza agli amici e gli amici alla tua ragazza. Ho un amico molto caro, si chiama Tex. A dire la verità non si chiama Tex, però tutti lo chiamiamo Tex, non so bene per quale motivo. Tex nella vita affitta barche a vela. Ha una base in un porto della Toscana da cui si raggiungono piuttosto facilmente le isole dell'arcipelago. Gli affari vanno piuttosto bene, sia lui che le affitta, sia noi amici, che ogni tanto possiamo scroccare qualche giro a prezzi ridicoli, a volte proprio a nessun prezzo. Io credo che tutti dovrebbero avere almeno un amico ricco. Un amico ricco e generoso, intendo, di quelli che mettono a disposizione le proprie cose, non di quelli che se le portano nella tomba. Secondo me sono più felici loro che le condividono e noi che ne approfittiamo. Insomma, venerdì, dopo il programma, insieme a Bazooka, Junior e le rispettive fidanzate, siamo partiti per la Toscana. Siamo arrivati a Castiglioncello dopo 4 ore di macchine e una sosta lungo la Cisa per mangiare in un ristorante di quelli dove si fermano i camionisti, che quindi tutti sanno che lì si mangia bene. Per le 10 eravamo in porto. Il primo respiro quando si scende dalla macchina in un posto di mare è sempre dolcissimo. Anche se l'umidità è piena di sale e magari in un porto l'odore più forte è quello del gasolio, il primo respiro arrivando dalla città in riva al mare è dolce come una pesca. Tex era già là, ovviamente, era già in barca insieme a Peppo e a Cucciolo. Abbiamo imbarcato i bagagli, fatto un paio di presentazioni di rito e poi abbiamo dato un occhio alle previsioni. Il bollettino era buono, dava una brezza da nord-est, cielo limpido e ottima visibilità. Non ci abbiamo pensato due volte. Alle 11 avevamo mollato gli ormeggi e la prua era dritta verso l'isola di Capraia. Ci si impiegano tra le 6 e le 7 ore per coprire quelle 32 miglia. Le prime ore in barca c'è sempre un grande fermento. Tutti si muovono, fanno, dicono cose. Ma verso l'una, l'una e mezza erano già tutti bolliti. A me piace stare sveglio in barca. Forse perché faccio fatica a dormire lì sopra. Ho annunciato che avrei fatto io il primo turno al timone e gli altri potevano andare a letto. Anche Natalia ha sonnecchiato un po' in coperta e poi è scesa in cabina. Sono rimasto da solo, ho aperto le vele e spento il motore. Il silenzio è come la salute. Lo apprezzi non quando c'è, ma quando ritorna. Che lo so che sembra una stupidaggine detta così, però prima che lo spegnessi il rumore del motore non mi dava nemmeno particolare fastidio. Era normale, era scontato che ci fosse. Poi invece, quando le voci e il rumore del diesel sono spariti, il silenzio è diventato talmente nitido che veniva voglia di ascoltarlo. Che poi non era nemmeno silenzio-silenzio, nel senso che c'era lo sciabordio dell'acqua sullo scafo e c'era il rumore del vento, però era diverso, ci sono rumori che coprono il silenzio e altri che lo esaltano. Verso le 3 di notte si è alzato un vento perfetto, da est. Le vele erano gonfie, il vento spingeva la barca. Io non saprei spiegare bene il motivo per cui provo una forma di godimento puro in queste situazioni, però credo che abbia a che fare con il movimento, cioè con il fatto che noi siamo abituati a muoverci, a piedi, in macchina, in vespa, solo che in barca è diverso, perché non sei tu a camminare, però non c'è nemmeno un motore che ti spinge. Ti muovono solo le cose che ci sono già, che ci sono sempre state, che nessuno ha costruito, il vento e l'acqua. Natalia e gli altri erano in cuccetto a dormire. A me era quasi venuta voglia di scrivere una poesia, ma fortunatamente mi sono fermato. Sì, perché la poesia è veramente una di quelle cose che se non le sai fare bene è un disastro. E questa regola non vale per tutto, eh? Cioè, non sai cucinare, ad esempio, può capitare che un piatto ti riesca non proprio da fare schifo e che sia mangiabile. Se non sai giocare a pallone, un modo per mimetizzarti in campo lo trovi. Però ci sono cose, tipo cantare, ad esempio, tipo scrivere poesie, che è meglio lasciarle fare a chi è in grado di farle. I cassetti di questo mondo sono pieni di parole infilate una dietro l'altra con la convinzione che siano romantiche o poetiche. E invece sono solo delle porcherie. In una situazione come quella puoi, solo su una barca in mezzo al mare, puoi solo scrivere parole tipo la magia del vento, la grazia del mare, la forza della natura. Meglio di no. Ho messo il pilota automatico e sono sceso a farmi un tè bollente. 1, 2, 3, 4. Baby crow, you're looking kinda mean. I think I oughta split before you start letting off your steam, for sure. And hey there, little sexy pig, you made it with a man. And now you've got a little kid with hooves instead of hands. And no. Alcuni luoghi della nostra vita sono più forti di noi. In qualche modo ci fanno paura e ci attraggono in una maniera che non comprendiamo. Quando ci arriviamo però non possiamo fare a meno di fermarci, non solo perché ci piacciono, ma per sentire come siamo diversi noi quando siamo lì. Siamo arrivati a Capraia verso le 8 del mattino. Nessuno aveva rispettato il proprio turno al timone. Junior e Bazooka russavano nelle cabine di poppa e degli altri neanche un cenno. Alla fine la notte è passata sopra la mia testa senza che quasi me ne accorgessi. Fatta esclusione per le ultime ore prima dell'alba, che sono quelle in cui la stanchezza ti pesa addosso come un cappotto pesante. Ho dato ancora davanti all'ingresso del porto e mi sono preparato una colazione. Il cielo era coperto da qualche nuvola che prometteva di andarsene non appena il sole fosse spuntato. Il colore dell'acqua intorno alla barca era verde, anzi azzurro, anzi nemmeno, non saprei dirlo esattamente. Dipendeva dal fondale, dipendeva dal riflesso del cielo, dall'increspatura della superficie. Quando sono uscito con un caffè latte bollente si era alzata una bella aria da terra. Il vento è un po' come quella lana spessa dei giacconi invernali. Assorbe gli odori dei posti e li porta con sé. Il vento a Capraia sa di miele. Socchiudo gli occhi per cercare di distinguerne gli odori. Pino marittimo, ginepro e soffritto. Dopo un'ora tutto l'equipaggio si era svegliato. Siamo entrati in porto e abbiamo ormeggiato proprio di fronte all'unico bar. Abbiamo fatto un'altra colazione e poi siamo saliti su, verso il paese. Capraia è un'isola piccola e poco abitata. Oltre al porto ha solo un piccolo paese, proprio in alto, vicino ad una fortezza cinquecentesca. Di quelle che nascono come castelli, poi diventano carceri e adesso sono resort per ricchi signori che detestano il caos. Ci vivono 400 persone a Capraia. L'unico collegamento è un traghetto che arriva e torna a Livorno una volta al giorno. Abbiamo girato tutto il giorno a piedi per sentieri che si arrampicavano tra montagne e piccole valli interne. C'era un'atmosfera come di attesa sull'isola. Le persone che incontravamo sembravano appena svegliate da un letargo, come se si stessero preparando a qualcosa che stava per arrivare. La sera abbiamo cenato in un ristorante proprio sotto la fortezza. Il proprietario ci ha raccontato che a marzo si comincia ad annusare l'arrivo della bella stagione. I venti sono meno freddi, la pioggia cade sempre di meno. È stato lui a parlarmi di quell'attesa che dura tutto l'inverno. Mi ha detto che ogni estate loro si preparano all'invasione. È come se ogni volta il traghetto vomitasse stranieri che passano, assaggiano l'isola e se ne vanno. E io mi sono sentito proprio così. Anche se non eravamo arrivati con un traghetto, avremmo fatto comunque la stessa cosa. Abbiamo pagato e siamo tornati in barca. Il giorno dopo siamo usciti molto presto la mattina. Abbiamo fatto rotta verso ovest. Nella parte sud dell'isola c'è un'insenatura che sembra uscita da un film. Si chiama Cala Rossa. Il colore della parete è così per via del ferro contenuto nella roccia. Ma l'acqua è azzurra e verde. Ci siamo fermati, abbiamo mangiato in pozzetto con il sole che già scaldava e sembrava un regalo. Poi prima di andare via, Junior ha voluto che la sua fidanzata, che non aveva mai messo piede in barca prima di quel giorno, provasse a timonare. Ci è mancato poco che finissimo a scogli. Noi ci siamo messi a ridere per sdrammatizzare, mentre lei si è messa a piangere e ha detto che se non si è capaci di fare una cosa, è meglio lasciarla stare. Un po' come per le poesie, le ho detto io. Lei ha sorriso, ma mi sa che non ha capito. Abbiamo acceso il motore e siamo ripartiti. Il cielo era nitido e dritto di fronte a noi, in fondo, si intravedeva la costa. Si sveglia la città, al ritmo sul volante, in coda dietro un tram e dalla radio il presidente. Buongiorno a te, chi sei? Nascosto nei pensieri, in piedi dalle sei di oggi o dalle sei di ieri. C'è un conto alla rovescia per ogni settimana, confuso tra gli odori della metropolitana. A chi si sente a terra? Buongiorno, buona fortuna, sono in perturbazione, ma Alberto mi scrive un sms di una poesia che si chiama Buongiorno Fiorellino. E fa così. Mi toglie ogni respiro la luce del mattino, da quando quel destino che fu tanto meschino da farmi dissipare un amor tanto divino, ma ora che sono nuovo e vivo del tuo amore è tutta la mia vita la luce del mattino. Buongiorno Fiorellino. E allora facciamo un piccolo gioco, visto che la soglia tra la boiata e l'opera d'arte è veramente sottilissima. Vorrei leggervi i versi di un tale Eugenio e capiamo se è un sms oppure qualcosa di più. Il viaggio finisce qui, nelle cure meschine che dividono l'anima che non sa più dare un grido. Ora i minuti sono uguali e fissi come i giri di ruota della pompa. Un giro, un salir d'acqua che rimbomba. Un altro, altra acqua, a tratti un cigolio. Eugenio, 800240024 349-238-6666. Ve ne leggo qualcun altro, abbiamo tempo prima della borsa, sì. Mauro, come una foglia nella tormenta, temo il grigiore dei giorni, l'inverno, che l'inverno... No, aspetta, Marco, va bene le concessioni poetiche, però... Come una foglia nella tormenta, temo il grigiore dei giorni, l'inverno paventa. Ma sarà che l'inverno paventa, giusto Mauro? Mauro, non lo sa neanche lui. Andrea, si sta come d'estate i pedalò in mezzo al mare. Questa è una versione vacanziera dei soldati, un remix. Cristiano, la neve è donna, la pioggia è donna, la stella è donna, la luna è donna, la poesia è donna. Cristiano, che schifo è sta roba. Cioè, va bene che abbiamo detto autoironia e una mano sul cuore, però un'ultima. Pioggia, camminavo sul nero bagnato mentre dal cielo cadevano diamanti. Fabrizio, adesso un po' di poesia con la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. La foto di oggi è veramente perfetta per la tematica, perché la poesia purtroppo non si racconta solo con le parole, ma molto spesso con le immagini. E tutti quanti prima o poi abbiamo scattato una foto poetica, ed è il caso di questa foto qui. C'è una maniglia, la maniglia di un portone, proprio in primissimo piano. C'è il legno del portone e la maniglia, che credo sia di ottone, non lo so perché non si vede, ma soprattutto perché non ho idea di che materiale siano fatto, ma soprattutto se la si guarda bene, non tanto la maniglia, ma l'ombra della maniglia nasconde qualcosa. Michela Barbieri, 40 anni, ho scattato questa foto al Parco Borromeo di Cesano Maderno. La luce disegnava un cuore sul portone d'ingresso e mi ha colpito che questa foto è fatta di luce e di ombra, proprio come la nostra anima. Spesso si vorrebbe eliminare le ombre, ma in fondo, come in una foto, sono proprio queste che donano bellezza al soggetto, lo rendono vivo e capace di trasmettere un'emozione. Io sono qui. Sì, Michela ha fatto decisamente un corso di fotografia e quindi voleva raccontarci la sua foto, e però vi raccomando di andare a vederla, sul sito è sempre quello, radio24.it, alla pagina di Io sono qui. È arrivato un messaggio che dice: leggete, e già l'imperativo mi fa, questi versi con base musicale inizio del concerto per piano e orchestra numero 2, opera numero 18 di Rachmaninov. Ce l'abbiamo? Come no, ragazzi? Allora non la posso hai ragione, non siamo Radio 3, quindi non ce l'abbiamo pronti così. Però vabbè, noi possiamo mettere la base di prima per questa? Giusto così, volante, mi perdono con Enzo, ma a quello che passa, Bonini. Disilludente risveglio dal sogno d'amore, tormentato preludio al giorno senza meta. T'odio, tu mi nascondi il suo volto, alla noia crudele mi riporti. Grazie Enzo, perdonami se non era Rachmaninov. L'amore è come una mela, prima un morso, poi un altro, alla fine rimane solo il torso. L'ho scritta nel 75. Ancora, ti odio perché sei la persona che avrei voluto amare. Non so se qualcuno l'ha già scritto, ma mi è venuta così. Un giorno che ero triste per l'ennesimo rifiuto di una bellissima ragazza. Ciao Marco, io credo che tu sia proprio l'unico. Sì, sì, sì, lo spero, quantomeno. 800240024. Ci sono valanghe di poeti al telefono e cominciamo subito da Antonio di Salerno. Pronto Antonio? Antonio? No, evidentemente Antonio non è pronto. Andiamo da Ileana, da Genova. Pronto Ileana? Pronto, sono qui. Buongiorno Ileana, come stai? Molto bene, grazie. Senti, tu scrivi poesie abitualmente o ti è capitato poche volte? Poche volte in passato, adesso non ho più la vena, l'ho persa. Ah, quindi era stato proprio un periodo della tua vita? Sì, appunto. Quanti anni hai adesso, Ilenia? Ileana, perdona. Tanti, eh. Quanti? 78. 78, però le scrivevi a che età? Intorno ai 35-40. Quindi sono poesie che risalgono a che anni più o meno? Al 70. Agli anni 70. Senti Ileana, ti chiedo solo di non leggermela tutta, insomma qualche verso. E quando vuoi Ileana, vai. Allora, il titolo è Sole. Sole. Stella, che di luce fecondi i tuoi figli e di lor curi la prole. Tu, fermento d'ogni amore, fai di insensibile materia vita. Per te azzardiamo i nostri sogni oltre i confini dell'ultimo pianeta. Ileana, ti ringrazio tantissimo. Senti, tu hai una famiglia, hai dei figli, dei nipoti? Dei nipoti. E gliele leggi ogni tanto queste poesie oppure sono una cosa che tieni per te? Sono nascoste perché riderebbero. Ma quindi è proprio un regalo quello che ci hai fatto? Sì, certo. Ileana, ti ringrazio tantissimo. Arrivederci. Buona giornata. Grazie. Grazie a te, arrivederci. Magnifica Ileana, magnifica. Uno studente fa leggere al suo maestro una poesia da lui composta per chiedere un parere. Il maestro gli dice di togliere prima di tutto gli aggettivi, poi i verbi, quindi i sostantivi, la punteggiatura. Lo studente: ma così non resta nulla. Il maestro: ecco, questa è poesia. Viene in mente Hemingway, che quando gli chiedevano che cosa serve vivere per poter scrivere, Hemingway rispose: provate ad impiccarvi, se non ce la fate al dopo potete scrivere qualcosa. Andiamo Antonio da Salerno, è ancora lì oppure proprio non ce l'abbiamo? Andiamo ad Antonio allora. Ci sono. Eccoci qua, ciao Antonio. Ciao Matteo. Senti, hai una poesia sotto mano, te la ricordi a memoria, come funziona? No, sì, me la ricordo a memoria, sto guidando, però insomma mi piaceva oggi la trasmissione e c'ho un paio di versi, diciamo, a memoria. E allora vai Antonio, recitameli subito. Sì. Vai. Non te la ricordo più. Ti ricordi, ma ti vergogni un po', Antonio. Un secondo. Un secondo, deve concentrarsi. Un secondo solo. Niente. Però. Se avessi, sì. Vai. Se avessi solo 100 passi, mi troveresti sulla strada tra mette. Più di 1000, purtroppo ne ho solo. È finita? Sì. Ok Antonio, ti ringrazio moltissimo. Guarda, secondo me la vera carica l'ha data la pausa iniziale. Grazie, buona giornata. Ciao Antonio. Quel secondo è diventato quasi 10. Andiamo avanti, se no vorrei sentirle tutte. Andiamo a Teramo da Francesco. Ciao Francesco. Ciao Matteo, buonasera. Buongiorno, sei in macchina anche tu? Sono in macchina anche io e sono all'Aquila per lavoro. Quindi sono fermo. Ma quindi vuol dire che te la ricordi a memoria, Francesco? No, telefonata a mia moglie perché non me la ricordo. No, fammi capire. Mia moglie ha detto: guarda, dammi subito la poesia a volo corta che sono in onda a Radio 24, poi senti che la te lo saluto. Quindi scusami, tua moglie ha il tuo archivio di poesie? No, allora io ho fatto due libri di poesie, la prima volta nel 96, poi sono riuscito dopo 10 anni a pubblicare un secondo volume di poesie, però la caratteristica delle mie poesie è che io le scrivo di getto e non me le ricordo, proprio non mi ricordo assolutamente, proprio è come se le vomitassi. E quindi diciamo il tuo hard disk è tua moglie fondamentalmente? No, abbiamo anche le copie che ho a casa. Ah giusto, Francesco vai, recitami qualche verso. Allora, misteriosa, l'ho letta in una saracinesca chiusa di un negozio chiuso. Sì. Misteriosa, ho pensato alla vita. Misteriosa, ho pensato alla storia, quella vera, non quella raccontata dai libri. Misteriosa, ho pensato a te che indossi gli occhiali scuri ed è già mezzanotte. Francesco, che cosa fai di lavoro? Faccio il rappresentante. Però in fondo sei un poeta. Grazie. Grazie a te. Ciao Francesco, ciao, buona giornata. Ciao, grazie davvero. Andiamo, Michele, della provincia di Lodi, perché anche nel cuore di Lodi ci sono dei poeti, o anche nel cuore della provincia di Lodi. Pronto, Michele? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Abbastanza bene, diciamo, sono a Lodi da poco. Di dove sei tu? No, io sono un esule, nel senso che sono un esule, che ho vissuto a Milano, Bergamo, Lodi, dato un po' da tutte le parti, quindi mi sento cosmopolita. Michele, senti, visto che voglio prendere un'altra telefonata, ti spiace se partiamo subito con i tuoi versi? Velocissimo. Vai. Allora, inizio, te ne dico una che mi frulla da due giorni. Vai. È inedita. Lo dico, io sono perché ero, io sarò perché sono, e corro velocemente in un infinito monotono e perfetto. Lui è perché era, lui sarà perché è. Michele, ti ringrazio, purtroppo devo chiudere. E ricordiamo che questa di Michele era inedita. Sentiamo un'ultima telefonata. Daita da Palermo. Buonasera. Buonasera, Daita. Daita è proprio il tuo nome? No, è un nome indiano, preso da una lettura di una scrittrice brevissima indiana, me ne sono innamorata e l'ho fatto. Ma quindi, scusami, quindi tu lo usi abitualmente o l'hai dato semplicemente oggi in diretta? Come no, lo uso, esco proprio da Ita Martina, e le mie poesie sono firmate da Ita Martina. Ok, guarda, Daita, vai pure quando vuoi. Ok, leggo al ritorno. Ascendo nel grembo dallo spacco di raso ed è ristretto il gambale. Grata infuocata sulla pietra mentre affanno il rumore del mare. Mordente ramico, il preciso risguardo fermenta ardita coltura. È il talamo di ghiaia sotto la bianca quinta di nostro sole notturno. L'aroma del labbro a confine è nuda pronuncia di sacra, germoglia e scompone occhio del tuo frammento di primitivo albore, narcosi incente al ritorno. Finita. Grazie mille, Daita. Temevo fosse ancora più lunga, ma sei anche aperto una porta mentre leggevi, però mi è piaciuto che sei andata dritta. Grazie mille, buona giornata. Ce ne abbiamo un'ultima, non ce l'abbiamo più, peccato, era un poeta ermetico e sono i miei preferiti, più che altro perché la poesia ermetica dura due parole. Vorrei chiudere con una sorta di poema racconto che mi è arrivato oggi, che parla dell'amore, ma parla dell'amore tra due animali. Titolo: Il pappagallo single. Ieri è morto il pappagallo, uno dei due. Aveva una coppia, maschio e femmina. Credo sia morto il maschio. Al lato dell'acquisto il negoziante mi spiegò come si fa a riconoscere il maschio dalla femmina. Signora, guardi, bisogna osservare il colore del becco. Se è rosa è femmina, se è celeste è maschio. Ieri è morto. L'ho trovato riverso nella gabbietta matrimoniale che condivideva con la sua consorte. Credo che ad ucciderlo sia stata la temperatura rigida di questi ultimi giorni. Non so fare altre ipotesi. Aveva tutto il necessario per vivere bene. Aveva la compagna premurosa che lo grattava sotto il mento. Sarà stato il freddo, sono animali esotici. Gifoni non è freddissima, ma certo non è il Brasile. Da prima cantavano, chiacchieravano tutto il santo giorno, almeno a me sembrava così. O forse litigavano. Certo è che da quando lei è rimasta sola è stranamente silenziosa, è quasi muta. La domanda che mi faccio è triste per la perdita del compagno o ha finalmente smesso di litigare? La soluzione del quiz, l'intro della poesia che ho letto prima della borsa era Casa sul mare di Eugenio Montale, ma d'altra parte Eugenio probabilmente ce n'è uno in tutta Italia. Grazie a Fabio Rudi Cantadori, grazie a Laura Faggin e a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?